nella reggia di Kemenfu, nei giardini di Magnolie, il grande imperatore Kublai Khan passeggia ascoltando le lunghe relazioni di viaggio di Marco Polo nel succedersi delle stagioni. Non è detto che il grande Kublai Khan creda a tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie, ma certo l'imperatore continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori conquistati. È il momento disperato in cui si scopre che questo impero, che c'era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Che ti serve, Marco? Tanto viaggiare. Gli altri ambasciatori mi avvertono di carestie, di concussioni, di congiure, oppure mi segnalano miniere di turchesi nuovamente scoperte, proposte di forniture di lane damascate. E tu, Marco, torni dai paesi altrettanto lontani e tutto quello che sai dirmi sono i pensieri che vengono a chi prende il fresco la sera seduto sulla soglia di casa. Il mio sguardo è quello di chi sta assorto e medita, lo ammetto, ma il tuo non dovrebbe essere così. Tu attraversi arcipelaghi, tundre, catene di montagne. Tanto varrebbe che non ti muovessi da qui. Avanzi con il capo voltato sempre all'indietro. Ciò che vedi è sempre alle tue spalle. Il tuo viaggio si svolge sempre nel passato. Hai viaggi per rivivere il tuo passato o viaggi per ritrovare il tuo futuro? Eccellentissimo Kublai, quello che cerco è sempre qualche cosa davanti a me. E anche se si tratta del passato, è un passato che cambia man mano che io avanzo nel viaggio. Il passato di un viaggiatore cambia a seconda dell'itinerario compiuto. Arrivando in ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. Il viaggiatore entra in una città, vede qualcuno in piazza vivere una vita o un istante che potevano essere suoi. Al posto di quell'uomo ora avrebbe potuto esserci lui, se si fosse fermato nel tempo, tanto tempo prima, oppure se tanto tempo prima ad un crocevia, invece di prendere una strada, avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell'uomo in quella piazza. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lui è escluso. Non può fermarsi, deve proseguire fino ad un'altra città, dove lo aspetta un altro suo passato, o qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro. E ora è il presente di qualcun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Ascolta, eccellentissimo Kublai, al di là di 6 fiumi e 3 catene, e 3 catene di montagne ancora, sorge Zora, città che chi l'ha vista una volta non può più dimenticare. Il suo segreto è il modo in cui la vista scorre su figure che si succedono come in una partitura musicale nella quale non si può cambiare né spostare nessuna nota. L'uomo che sa a memoria come è fatta Zora la notte quando non può dormire, immagina di camminare per le sue vie e ricorda l'ordine in cui si succedono l'orologio di rame, la tenda a strisce del barbiere, lo zampillio dei 9 schizzi, la torre di vetro dell'astronomo, l'edicola del venditore di cocomeri, la statua dell'eremita e del leone, il bagno turco, il caffè all'angolo, la traversa che va al porto. Questa città, che non si cancella dalla mente, è come un'armatura o un reticolo nelle cui caselle ognuno può disporre le cose che vuole ricordare: nomi di uomini illustri, virtù, numeri, costellazioni, date di battaglie. Gli uomini più sapienti del mondo sono quelli che ricordano a mente Zora. Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Isidora. All'uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio di una città e finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d'arte cannocchiali e violini, dove, quando il forestiero è incerto tra due donne, ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. Ecco, a tutte queste cose l'uomo pensava quando desiderava una città. Isidora, dunque, è la città dei suoi sogni, con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane. A Isidora lui arriva in tarda età. Nella piazza c'è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù. Lui, l'uomo, è seduto in fila con loro e i desideri sono già ricordi. Entrai in Ipazia un mattino. Un giardino di magnolie si specchiava su lagune azzurre. Io andavo tra le siepi, sicuro di scoprire belle e giovani dame fare il bagno. Ma in fondo all'acqua vedevo i granchi che mordevano gli occhi delle suicide con la pietra legata al collo e i capelli verdi di alghe. Mi sentii defraudato e volli chiedere giustizia al sultano. Salii le scale di porfido, attraversai sei cortili di maiolica con zampilli. La sala nel mezzo era sbarrata da inferriate. I forzati con nere catene al piede issavano rocce di basalto a una cava che s'apre sottoterra. Non mi restava che interrogare i filosofi. Così, in una nuvola di fumo, mi apparvero gli occhi inebetiti di un adolescente sdraiato su una stuoia che non staccava le labbra da una pipa d'oppio. «Dov'è il sapiente?» chiesi. Il fumatore indicò fuori dalla finestra. Era un giardino con giochi infantili, i birilli, l'altalena, la trottola. Il filosofo sedeva sul prato e disse: «I segni formano una lingua e non quella che credi di conoscere». Capii che dovevo liberarmi dalle immagini che fin qui mi avevano annunciato le cose che cercavo. È solo così io sarei riuscito ad intendere il linguaggio di Ipazia. Certo, anche a Ipazia verrà il giorno in cui il mio solo desiderio sarà partire, ma so che non dovrò scendere al porto, ma salire sul pennacolo più alto della rocca ed aspettare che una nave passi lassù. Ma passerà mai? Non c'è linguaggio senza inganno. D'ora in avanti, Marco, sarò io a descrivere le città e tu verificherai se esistono e se sono come io le ho pensate. Comincerò a chiederti di una città a scale esposta a scirocco su un golfo a mezzaluna. Ora dirò qualcuna delle meraviglie che contiene. Una vasca di vetro alta come un duomo per seguire il nuoto e il volo dei pesci rondine e trarne auspicio. Una piazza con intorno una tavola di marmo fatta a ferro di cavallo, con la tovaglia pure in marmo, imbandita con cibi e bevande tutte in marmo. Sire, eri distratto. Di questa città ti stavo raccontando quando mi hai interrotto. Non ha nome né luogo. E ti ripeto la ragione per cui la descrivevo. Dal numero delle città immaginabili occorre escludere quelle i cui elementi si sommano senza un filo che li connetta, senza una regola interna, una prospettiva o un discorso. È delle città come dei sogni. Tutto l'immaginabile può essere sognato, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, cioè una paura. La città come i sogni sono costruite di desideri e di paure. Anche se il filo del loro discorso è segreto, ogni cosa ne nasconde un'altra. Anche le città credono di essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tenere su le loro mura. Di una città io non godo le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Le tue città non esistono, Marco. Forse non sono mai esistite. Per certo non esisteranno più. Ma perché ti trastulli con favole consolanti? Io so bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude, il cui contagio appesta tanto i corvi che lo beccano quanto i bambù che crescono concimati dal suo liquame. Perché non mi parli di questo? Perché menti all'imperatore dei Tartari, straniero? Sire eccellentissimo. Ah sì? L'impero è malato e quel che è peggio cerca di assuefarsi alle sue piaghe. Ma il fine delle esplorazioni è questo. Scrutando le tracce di felicità che ancora si intravedono, io ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane. Io non ho desideri né paure e i miei sogni sono composti o dalla mente o dal caso. Di capo a 3 giornate, andando verso mezzodì, l'uomo si incontra ad Anastasia, città bagnata da canali concentrici e sorvolata da aquiloni. Dovrei ora numerare le merci che qui si comprano con vantaggio: agata, onice, crisopazio e altre varietà di calcedonio. Dire delle donne che ho visto fare il bagno nella vasca di un giardino e che talvolta invitano il passeggero a spogliarsi con loro e a rincorrerle nell'acqua. La descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti poi a soffocarli. Ma che si trova un mattino in mezzo ad Anastasia, i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. E poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. questo potere, che ora dicono maligno e ora benigno, è questo il potere che ha Anastasia, città ingannatrice. Se per 8 ore al giorno tu lavori come un tagliatore di agate, onici, crisopazzi, la tua fatica che dà forma al desiderio prende dal desiderio la sua forma e tu credi di godere per tutta Anastasia mentre non ne sei che lo schiavo. Di là, dopo 6 giorni e 7 notti, l'uomo arriva a Zobeide, città bianca, ben esposta alla luna, con vie che girano su se stesse come in un gomitolo. Si racconta questo della sua fondazione. Uomini di nazioni diverse ebbero un sogno uguale. Videro una donna correre di notte per una città sconosciuta. La videro da dietro, coi capelli lunghi ed era nuda. Sognarono di inseguirla. Gira, gira, ognuno la perdette. Dopo il sogno andarono cercando quella città. Non la trovarono, ma si trovarono tra di loro e decisero di costruire una città come era nel sogno. Della disposizione delle strade, ognuno rifece il percorso del suo inseguimento. Nel punto in cui aveva perso le tracce della fuggitiva, uno ordinò di costruire mura in modo che non gli potesse più scappare. Questa fu la città di Zobeide, in cui quegli uomini si stabilirono aspettando che una notte si ripetesse quella scena. Ma nessuno di loro, né nel sonno né da sveglio, vide mai più la donna. Nuovi uomini arrivarono da altri paesi, avendo avuto un sogno come il loro, e nella città di Zobeide riconoscevano qualcosa delle vie apparse in sogno, e così cambiavano di posto ai porticati e alle scale perché somigliassero di più al cammino fatto dalla donna inseguita, e perché nel punto in cui era sparita non le restasse più via di scampo. Ma i primi arrivati non capirono mai che cosa tresse questa gente a Zobeide, in questa in fondo brutta città, e in questa trappola. Le città di cui mi parli, Marco, sono sempre diverse da quello che ho pensato io. Eppure io ho costruito nella mia mente un modello di città da cui dedurre tutte le città possibili. Esso racchiude tutto quello che risponde alla norma. E siccome le città che esistono s'allontanano in vario grado dalla norma, Mi basta prevedere le eccezioni alla norma e calcolarne le combinazioni più probabili. Marco, ti racconterò cosa ho sognato questa notte. In mezzo a una terra piatta e gialla, cosparsa di meteoriti e massi erratici, vedevo di lontano elevarsi le guglie di una città dai pinnacoli sottili, fatti in modo che la luna possa posarsi ora sull'uno, ora sull'altro, o dondolare appesa ai cavi della gru. Sire, la città che hai sognato è La Lage. Questi inviti alla sosta nel cielo notturno, i suoi abitanti li disposero perché la luna conceda ad ogni cosa nella città di crescere e ricrescere senza fine. No, ma c'è qualcosa che tu non sai, Marco. Riconoscente, la luna ha dato alla città di La Lage un privilegio più raro: crescere in leggerezza. Ora, eccellentissimo, vi dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi, catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, e ci si aggrappa alle maniglie di canapa. Sotto non c'è niente, per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre e si intravede più in basso il fondo del burrone. E questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, montacarichi, docce, trapezzi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame, pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti di Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c'è il grande ottovolante dalle ripide gobbe, la giostra con la raggiera di catene, la ruota dalle gabbie girevoli, il pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù e la cupola del circolo col grappolo dei trapezzi che pende in mezzo. L'altra mezza città è di pietra e di marmo, con la banca, i palazzi, gli opifici, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l'altra è provvisoria. E quando il tempo della sua sosta è finito, la schiodano, la smontano e la portano via per trapiantarla nei terreni vaghi di un'altra mezza città. Così ogni anno arriva un giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, calano i muri di pietra, i piloni di cemento, smontano il ministero, il monumento, la raffineria di petrolio, l'ospedale e la scuola e li caricano sui rimorchi per seguire di piazza in piazza l'itinerario di ogni anno. Qui resta la mezza sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso dalla navicella dell'otto volante a capofitto. E comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia. E nelle giornate luminose, l'ombra traforata ed angolosa che si disegna sul fogliame. 3 ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci. Primo, che odino la terra. Secondo, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto. Terzo, che la amino com'era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. Marco, ai piedi del mio trono si estende un pavimento di maiolica. Tu, Marco, mi sciorini il campionario delle mercanzie riportate dai tuoi viaggi ai confini dell'impero. Un elmo, una conchiglia, una noce di cocco, un ventaglio. Disponendo in un certo ordine gli oggetti sulle piastrelle bianche e nere e via via spostandoli con mosse studiate, tu cerchi di rappresentare ai miei occhi le vicissitudini di remoti capoluoghi. Io, Kublai Khan, sono un attento giocatore di scacchi e, seguendo i tuoi gesti, osservo che certi pezzi implicano o escludono la vicinanza di altri pezzi o si spostano secondo certe linee. Se ogni città è come una partita a scacchi, il giorno in cui arriverò a conoscerne le regole, possiederò finalmente il mio impero, anche se mai riuscirò a conoscere tutte le città che contiene. Mi basta questa scacchiera, con i suoi pezzi dalle forme esattamente classificabili. Un cavallo può rappresentare un vero cavallo, o un corteo di carrozze, o un esercito in marcia, o un monumento equestre. Una regina può rappresentare una dama affacciata al balcone in una notte di luna. Ma adesso è il perché del gioco a sfuggirmi. Il fine di ogni partita è una vincita o una perdita. Ma di cosa? Qual è la vera posta? Allo scacco matto, sotto il piede del re sbalzato via dalla mano del vincitore, resta un quadrato nero o bianco. La conquista definitiva di cui i multiformi tesori dell'impero non sono involucri illusori, ebbene tutto questo si riduce ad un tassello di legno piallato, cioè al nulla. La tua scacchiera, eccellentissimo, è un intarsio di due legni, no? Ebano ed acero. Il tassello sul quale si fissa il tuo sguardo illuminato fu tagliato in uno strato del tronco che crebbe in un anno di siccità. Vedi come si dispongono le fibre? E qui si scorge un nodo appena accennato. Questa è una gemma che tentò di spuntare in un giorno di primavera precoce, ma la brina della notte l'obbligò a desistere. Ecco un poro più grosso. Forse è stato il nido di una larva e non di un tarlo, perché appena nato avrebbe continuato a scavare, ma di un bruco che rosicchiò le foglie e fu la causa per cui l'albero fu scelto per essere abbattuto. E questo margine fu inciso dall'ebanista. Marco, tu vieni a parlarmi di boschi d'ebano, della siccità, delle gemme, della primavera precoce, di ebanisti e soprattutto, mio eccellentissimo, di ricordi di viaggiatori. Mm-hmm. A Melania, ogni volta che si entra nella piazza, ci si trova in mezzo a un dialogo. Il soldato millantatore e il parassita, uscendo da una porta, si incontrano con il giovane scialacquatore e la meritrice. Oppure il padre avaro, dalla soglia, fa le ultime raccomandazioni alla figlia amorosa ed è interrotto dal servo sciocco che va a portare un biglietto alla mezzana. Si ritorna a Melania dopo anni e si ritrova lo stesso dialogo che continua. Ma nel frattempo sono morti il parassita, la mezzana e il padre avaro. E così il soldato millantatore, la figlia amorosa e il servo sciocco hanno preso il loro posto, sostituiti a loro volta da nuovi personaggi, dall'ipocrita, dalla confidente e dall'astrologo. La popolazione di Melania si rinnova. I dialoganti muoiono e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo. Si producono e riproducono cambiamenti a catena finché tutte le parti non sono distribuite di nuovo. Ma intanto al vecchio irato continua a rispondere la servetta spiritosa. L'usuraio non smette di inseguire il giovane diseredato e la nutrice di consolare la figliastra, anche se nessuno di loro conserva gli occhi e la voce che aveva nella scena precedente. Col passare del tempo, anche le parti non sono più esattamente le stesse di prima. Chi s'affaccia alla piazza in momenti successivi sente, di atto in atto, che il teatro cambia, anche se le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene. Dalla città di Zirma i viaggiatori tornano con ricordi ben distinti. Un negro cieco che grida nella folla. Un pazzo che si sporge dal cornicione di un grattacielo, una ragazza che passeggia con un puma legato al guinzaglio. In realtà è così. Molti dei ciechi che battono il bastone sui selciati di Zirma sono negri. In ogni grattacielo c'è qualcuno che impazzisce e tutti i pazzi passano le ore sui cornicioni e non c'è un puma che non sia levato per un capriccio di una ragazza. La città è ridondante. Si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. Anche io torno a Zirma e il mio ricordo comprende dirigibili che volano in tutti i sensi all'altezza delle finestre, vie di botteghe dove si disegnano tatuaggi sulla pelle dei marinai, treni sotterranei stipate di donne obese in preda all'afa. I compagni che erano con me giurano di aver visto un solo dirigibile, un solo tatuatore e una sola donna cannone farsi vento sulla piattaforma di un vagone. La memoria è ridondante, ripete i segni, li ripete perché la città cominci ad esistere. Thank you. Dunque, Marco, è davvero un viaggio nella memoria il tuo? È per smaltire un carico di nostalgia che sei andato tanto lontano? E ora, con la stiva piena di rimpianti, fai ritorno dalle tue spedizioni. Magri acquisti, a dire il vero, per un mercante della Serenissima. Dai, confessa. Cos'è che contrabbandi? Stati d'animo? Stati di grazia? Energie? Io non so quando hai avuto il tempo di visitare tutti i paesi che mi descrivi, ma a me sembra che tu non ti sia mai mosso da questo giardino. Sire, ogni cosa che io vedo e faccio prende uno spazio della mente dove regna la stessa calma di qui, la stessa penombra, lo stesso silenzio percorso dai fruscii delle foglie. Nel momento in cui io mi concentro a riflettere, mi trovo sempre in questo giardino, a quest'ora della sera, al tuo augusto cospetto, pur seguitando senza un minuto di sosta a risalire un fiume verde di coccodrilli o a contare i barili di pesce salato che calano nella stiva. Forse questo giardino esiste soltanto all'ombra delle nostre palpebre abbassate. E mai abbiamo interrotto tu di sollevare polvere sui campi di battaglia, io di contare ai secchi e sacchi di pepe in lontani mercati, ma ogni volta che socchiudiamo gli occhi in mezzo al frastuono e alla calca, ci è concesso di ritirarci qui, vestiti di kimoni di seta, a considerare quello che stiamo vedendo e vivendo, a tirar somme e a contemplare il lontano. Forse, Marco, questo nostro dialogo si sta svolgendo tra due straccioni soprannominati Kublai Khan e Marco Polo, che stanno rovistando in uno scarico di spazzatura ammucchiando rottami arrugginiti, brandelli di stoffa e cartacce. Due ubriachi che per pochi sorsi di cattivo vino vedono splendere intorno a loro tutti i tesori dell'Oriente. Sire, forse del mondo sono rimaste solo due cose: un terreno vago ricoperto di immondezzai e il giardino pensile della reggia del Gran Khan. Sono le nostre palpebre che li separano, ma non si sa qual è il dentro e qual è il fuori. A Chloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose l'uno dell'altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra di loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze e i morsi. Ma nessuno saluta nessuno. Gli sguardi si incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi e non si fermano. Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato alla spalla e anche un poco il tondo delle natiche. Passa una donna di nero vestita che dimostra tutti i suoi anni con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante tatuato. Passa un uomo giovane con i capelli bianchi, una nana e due gemelle vestite di corallo. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi, come linee che collegano una figura all'altra e disegnano frecce, stelle, triangoli, finché tutte le combinazioni non sono esaurite e altri personaggi entrano in scena. Un cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana col ventaglio di piume di struzzo, un efebo, una donna cannone. Così, tra chi per caso si trova insieme a ripararsi dalla pioggia sotto il porticato o sosta ad ascoltare la banda in piazza, si consumano incontri, seduzioni, amplessi, orge, senza che ci si scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito, quasi senza alzare gli occhi. Una vibrazione lussuriosa muove continuamente Chloe, la più casta delle città. Se per caso uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui comunicare, una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, di urti, di oppressioni, e la giostra delle fantasie si fermerebbe. Non è felice la vita nella città di Raissa. Per le strade la gente cammina torcendosi le mani, impreca ai bambini che piangono, s'appoggia ai parapetti del fiume con le tempie tra i pugni. Alla mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. Tra i banconi, dove ci si schiaccia tutti i momenti le dita con il martello, o ci si punge col l'ago, o davanti alle file di bicchieri vuoti sullo zinco delle bettole, meno male che le teste chine ti risparmiano dagli sguardi torvi. E dentro le case è peggio. D'estate le finestre rintronano di litigi e piatti rotti. Eppure, a Raissa, a ogni momento, c'è un bambino che da una finestra grida ad un cane il quale è saltato su una tettoia per mordere un pezzo di polenta caduto ad un muratore che dall'alto dell'impalcatura ha sussurrato «Gioia mia, lasciami intingere» a una giovane ostessa che solleva un piatto di ragù sotto la pergola, contenta lei di servirlo all'ombrellaio che festeggia un buon affare, cioè un parasole di pizzo bianco comprato da una gran dama per pavoneggiarsi alle corse, innamorata di un ufficiale che le ha sorriso nel saltare l'ultima siepe, felice lui, ma più felice ancora il suo cavallo che volava sugli ostacoli, vedendo volare in cielo un francolino, felice uccello liberato dalla gabbia da un pittore, felice pure lui di averlo dipinto piuma per piuma, picchiettato di rosso e di giallo nella miniatura di quella pagina del libro in cui il filosofo dice: anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente all'altro per un attimo e poi si disfa e poi torna a tendersi tra i punti in movimento, disegnando nuove rapide figure, così che a ogni secondo la città infelice contiene una città felice che nemmeno sa di esistere. Thank you. Eccellentissimo Kublai Khan, io parlo, parlo, ma chi m'ascolta trattiene solo le parole che aspetta. Una è la descrizione del mondo a cui tu presti benigno orecchio, altra quella che farà il giro dei capannelli di scaricatori e gondolieri sulle fondamenta di casa mia il giorno del mio ritorno, altra ancora quella che potrei dettare in tarda età se venissi fatto prigioniero da pirati genovesi e messo in ceppi nella stessa cella con uno scrivano di romanzi d'avventura. Chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. Alle volte, Marco, mi pare che la tua voce mi giunga da lontano, mentre sono prigioniero di un presente vistoso e invivibile in cui tutte le forme di convivenza umana sono giunte ad un estremo del loro ciclo e non si può immaginare quali nuove forme prenderanno. E ascolto dalla tua voce le ragioni invisibili di cui le città vivevano e per cui forse dopo morte rivivranno. Marco, tu che esplori intorno e vedi segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri ci spingono i venti propizi? Ecco, questo Atlante contiene anche le carte di terre promesse visitate col pensiero, ma non ancora scoperte o fondate. La nuova Atlantide, Utopia, la città del sole, Oceania, Armonia, Icaria. Ah, ma per questi porti, eccellentissimo sire, io non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la data dell'approdo, però alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo di un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di due passanti che si incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta. Se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando sparsa entro i confini del tuo impero. Puoi rintracciarla, ma solo nel modo che io ti ho detto. Ah, tutto è inutile, Marco, se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente, no? Eccellentissimo Kublai, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventare parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio.